Allora, siamo Radio Wombat, ovviamente siamo alla giornata di mobilitazione, di sciopero con un compagno lavoratore dell'ex ATAF, a questo punto ci tocca dire, Autolinee Toscane, sciopero di 24 ore indetto oggi, martedì 12 luglio, e una prima cosa ti volevo chiedere intanto che cosa sta succedendo qua sopra, cioè perché avete scelto proprio questo giorno e cosa sta succedendo qui alla regione, visto che siamo davanti alla regione toscana. Allora, oggi dovrebbe essere il Consiglio regionale. Siamo qui sotto proprio per questo motivo, perché riteniamo che la regione sia la maggiore artefice di tutto questo disservizio che sta creando, perché è stata quella che alla fine ha privatizzato tutto il servizio della Toscana. Ricordiamoci che il servizio è stato privatizzato prima Fiorentino tramite Renzi e poi via via tramite Rossi ha fatto un appalto, una gara d'appalto per tutta la Toscana, vinta poi dalla multinazionale ATP francese, che ha praticamente preso in appalto tutto il trasporto pubblico locale toscano, di tutta la Toscana. Quindi a questo punto noi siamo qui sotto proprio allora a ricordargli, e dovrebbero essere loro a questo punto i garanti, visto che l'hanno svenduto, di questo servizio che non sta funzionando nella maniera più assoluta. Noi l'abbiamo sempre denunciato e sempre detto che nel momento in cui il servizio sarebbe passato in mano al privato, questo sarebbe peggiorato, perché il privato logicamente che investe in un servizio investe per farci profitto, e fin quando il profitto fatto sul servizio, anche un euro andrà fatto il profitto, andrà in tasca ai padroni, non sarà certo per fare il servizio pubblico, questo è chiaro. Noi siamo sempre stati dell'avviso che le aziende di trasporto pubblico non è che debbano essere dei baracconi politici per combattere politici in cui devono fare debiti e basta, perché possono fare il servizio, possono fare un servizio efficiente, possono fare degli utili, ma questi utili devono essere reinvestiti per il servizio e non andare in tasca dei padroni. Quindi la nostra azienda principale è un'azienda pubblica, gestita però anche da un controllo voluto da lavoratori, da utenti che controllano che il servizio sia fatto efficientemente e che gli utili, eventuali utili fatti al profitto, siano investiti per questo. Purtroppo questo è un sogno, molto probabilmente, un sogno, perché questo non si sta avverando, non si è avverato, anzi si è andato proprio alla privatizzazione. E non a caso anche ora le ultime manovre del governo, vedi il decreto concorrenza, eccetera, stanno delocalizzando e stanno pensando di andare a privatizzare tutto, andando in barba anche a quello che è stato il 2012, il referendum in cui tutti gli italiani hanno detto che l'acqua, ma non solo l'acqua, ma tutti i servizi pubblici essenziali dovevano essere privati. Pubblici. Pubblici, sì, scusa. La mente Purtroppo poi è successo così. ormai il privato è entrato nella testa e nella mente Ormai è di tutti, successo così. è successo di quello, quindi sono andato a quello del fatto, Ti chiedo capito? un'altra cosa, visto che lo citavi prima, il rapporto tra RTP, quindi l'azienda francese, e invece Autolinee Toscane, cioè perché ti dicevi l'appalto se l'ha vinto l'azienda L'appalto francese. l'ha vinta Autolinee Toscane, Ah, ecco, che è ok. praticamente, Autolinee Toscane è una partecipare al 100% di RATP, Ah, ok, questo mi mancava. questo qui, che è la stessa che gestisce la tranvia, perché anche GEST è quella tranvia, però GEST è un'azienda di RATP, il capitale è RATP francese, quindi il trasporto pubblico, sia fiorentino su gomma, toscano su gomma, scusa, e ferroviario, chiamiamolo tranvie, è in mano ai francesi a questo punto, è in mano probabilmente al privato, cioè il pubblico non ha più niente a che fare con il trasporto. Questo è, cioè, come dice, come, quando c'è stato anche il fatto, per dire, divago un pochino, ma sulla pandemia, quando la pandemia in cui si chiedeva servizio, in cui era ridotto il servizio, cioè la cosa grave è stata da parte della politica, che chiedeva, diceva, ora devo fare un preventivo all'azienda per sapere quanto mi costa il servizio, cioè capisci bene, cioè, il servizio pubblico non puoi fare un preventivo, cioè, se è pagato un servizio pubblico, è un servizio pubblico, è un diritto alla mobilità, alla salute era in quel momento lì, e quindi logicamente il privato te lo fa il servizio, voglia, perché più servizio fai, più che ci guadagna, non lo fa per il pubblico. Quindi è qui la problematica grossa di tutto questo, capito? E poi, come ho detto, alla fine ci rimette sia l'utenza che i lavoratori su questo, perché tanto male poi alla fine su qualcosa va tagliato. Come quando sulla sanità pubblica, sempre tornando alla pandemia, invece di espropriare le cliniche private, gli si faceva delle Per convenzioni fare i tamponi. strapagandole. Esatto, esattamente uguale.